9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 22 di giugno, un augurio a chi si chiama Paolino, Paolino Danola, oggi dice il calendario liturgico. Allora, oggi proseguiremo nell'osservazione delle condizioni che spingono molte imprese a dire non ci sono più le condizioni per rimanere in Italia e dobbiamo, per salvarci e continuare ad avere testa, design, made in Italy, attenzione sui processi e prodotti, andare in quei paesi che sono meno selvaggiamente e deliberatamente ostili alle condizioni della produzione. E lo fanno tutti i giorni, votano con i piedi, se ne vanno nella cecità, nella sordità, nella totale mancanza di reazioni, come è capitato agli imprenditori che si uccidevano, come è capitato ai lavoratori che si uccidevano, ai pensionati che si uccidevano, così, allo stesso modo, una totale mancanza di reazioni adeguata a questo processo quotidiano di smontaggio della manifattura e dell'offerta dei servizi italiani. Negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, negli ultimi anni, io non sto dicendo il governo attuale, sia ben chiaro, è una condizione che avanza, perché avanza ed è condivisa purtroppo dalla politica che ha governato per anni la responsabilità di un paese che si mette in condizioni di accumulare giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, pressione fiscale crescente, ordinamento amministrativo pervasivo, regole incomprensibili, tutto ciò che alla fine rende... rispetto a ciò che fanno gli altri paesi vicini ai nostri confini o lontani ai nostri confini, ma che possono essere interessanti per l'assediamento delle attività produttive italiane, rispetto a quello che fanno loro, questa è la realtà di come procede per anni la situazione. E quindi avremo altri due ospiti, che come lo Zucchi di ieri, che a Piacenza, nel Piacentino, si porrà domani il problema di un passaporto per la vita, cioè di in quale altro paese andare, oggi ci spiegheranno come questo fenomeno sia in realtà in corso, per esempio nel nord-est. Ma consentitemi prima di cominciare esattamente sui temi toccati dal giornale radio di ieri, perché la condizione europea si sta nuovamente rendendo incandescente e purtroppo ce n'è anche per l'Italia. Innanzitutto, vi ricordate qualche giorno fa, all'inizio della settimana, quando abbiamo sostenuto che il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, non avesse torto nel dare un giudizio sulla la riforma del mercato del lavoro, che era... È una cagata pazzesca! Ecco, allora, siccome anche oggi ci sono giornali come il Corriere della Sera che dicono approvarla senza ritardi, Maurizio Ferrera, io vi invito oggi a... se non avete computer a comprare, vale la pena di farlo. Io lo faccio, io guardo tutti i giorni il Wall Street Journal Europe, perché il primo editoriale di oggi del Wall Street Journal Europe è dedicato esattamente alla riforma del mercato del lavoro del governo Monti. Employment Italian Style è il titolo. Ed è una rassegna di che cosa le imprese italiane, per i lettori di lingua inglese, europei e americani, che ovviamente non sanno quanto pervicacemente e ossessivamente demente sia il nostro ordinamento degli obblighi di impresa, c'è una descrizione di tutti i livelli che scattano man mano che tu cresci come numero di dipendenti in Italia, da 5 dipendenti a 10 dipendenti, a 15 dipendenti, a 100 dipendenti, a 250 dipendenti, per ciascuna di queste soglie. Quindi non sto parlando solo della soglia del 15 dipendenti per i licenziamenti, che a tutti gli effetti poi non varrà più, no? con questa riforma, nel senso che gli obblighi ci sono per tutti, ma per ciascuno di questi livelli c'è l'elenco degli adempimenti di sicurezza, di genere, contributivi, amministrativi, eccetera, eccetera, da porre in essere. E naturalmente si dice che, come equalmente, questa riforma non incide minimamente su questi adempimenti. Anzi, dal punto di vista contributivo, come sapete, nei canali di ingresso diversi dai contratti a tempo determinato, li aggrava, come aggrava la batteria di controlli e adempimenti per quei tipi di contratti a tempo determinato. Il giudizio del Wall Street Journal, che si limita a descrivere questi adempimenti, dopo aver detto che se dalla condizione del lavoro italiano ci si aspetta passi in avanti sostanziali da questo, è come credere di asciugare, svuotare il lago di Como con il cucchiaino, come ovvio. La conclusione è che questa riforma è una battuta, la conclusione è forse più che risolvere i problemi dell'occupazione e della crescita, forse è fin troppo se con questa riforma del governo Monti riuscirete a, naturalmente a costo di qualche onere aggiuntivo, ad assumere qualcuno che non sia disabile o un sardo con gli occhi blu. Qui è una battuta un po' razzista, devo dire, perché non mi piace molto usare i disabili e i meridionali come esempio di coloro che naturalmente l'ordinamento ti induce a scegliere. È una battuta molto americana, per così dire. È chiaro che non si sopporta facilmente che l'imprenditore qui si trovi indicato chi deve assumere, ma è solo per dirvi di come noi veniamo giudicati all'estero e del perché, appunto, oggi ci occupiamo del perché l'impresa vada via. Se guardiamo alle eurocronache, al di là della partita Grecia-Germania di stasera che infiamma molti, molti animi, vedo che tutti tifano Grecia, è ovvio, può essere che sia la partita della vita e stasera i greci, anche se non c'è Karagoulis in campo, si sentano tutti dei leoni dalle Termopili, si sentano tutti sulla pianura di Maratona, corrano in avanti come quando sorpresero i barbari asiatici improvvisamente sovvertendo le regole e correndo per 1,8 km, gli storici si sono sempre interrogati sulla validità di questa ricostruzione, a Maratona li attaccarono prima di dare il tempo alla cavalleria per segnali di spiegarsi. Può essere, per carità, la partita della vita non si nega a nessuno e tutti poi tifano, ho sentito ieri anche questa radio, la Grecia come se fosse una specie di rivincita sui cattivi tedeschi. Che volete che vi dica? Allora a me tocca tifare Germania, perché chi è più forte deve vincere e questa è una regola che vale nello sport come nel mercato, e chiunque si sottrae perché è debole e chiede dobbiamo pesare uguale, come sento tante voci, peccato che la storia non sia fatta così, non sia fatta così. Per quello c'è la Bibbia che ci dice che nell'aldilà saremo tutti uguali, però nell'aldilà, perché anche in questa vita qua, per chi ci crede, bisogna far vedere i meriti. Quindi chi ha meno merito, per favore, non chieda che le proprie colpe passino in cavalleria, poi vinca il più forte. Ma sui giornali europei oggi ci sono molte cose purtroppo negative che vanno sottolineate. Mi colpisce molto per esempio che il mio amico William Buiter, che è il capo chief economist di Citibank ed è diventato chief economist di Citibank dopo aver criticato per anni quello che facevano con i derivati le banche, quindi è uno con la spina dorsale, uno che ha servito nel Monetary Committee di Bank of England, è uno straordinario anglo-olandese di cui apprezzo da quando sono giovane la dirittura morale e la capacità di analisi economico-monetaria. Allora, William Buiter ha mandato una analisi ieri ai clienti, ai primary client, in cui dice: mi sono definitivamente convinto, l'uscita della Grecia è virtualmente certo, perché in questi giorni si è capito che i ministri delle finanze dell'euroarea non sono in condizioni davvero di fare il cambio di marcia tenendo la Grecia dentro, necessario per dare forza e credibilità all'euro in quanto tale. Quindi William Buiter dice Grecia fuori è molto difficile anche che l'euro resti a 16 in condizioni di evitare l'estendersi del contagio spagnolo è una minaccia seria di default dell'Italia, c'è scritto testualmente così. Allora, voi direte, ehi, chief economist di Citigroup, chi se ne frega. Attenzione, William Buiter è una del più, come si direbbe, una leading personality, è uno di quelli che fa il tono dei commenti che vanno sui grandi giornali mondiali, quindi mi preoccupa molto questo giudizio. In più, se andate a guardare oggi Financial Times Deutschland, c'è una batteria, e Frankfurter Allgemeine, c'è una batteria di cose che fanno giustamente pensare male. Per esempio, sul Frankfurter Allgemeine Zeitung ci sono articoli dedicati al presidente Joachim Gauck, il presidente da poco eletto tedesco. La faccenda è quella che attribuiva ad Angela Merkel l'intenzione di accelerare la firma del Presidente della Repubblica per il passaggio dell'SM al posto dell'FSF il 1 luglio. La Corte Costituzionale tedesca è intervenuta, perché in quel caso sarebbe stato impedito l'analisi, sapete, sulla solita condizione che la Corte Costituzionale tedesca ha posto alla recezione del trattato, per evitare che sia un debito altrui non autorizzato dal Bundestag. E si capisce, leggendo la Frankfurter Allgemeine, come su questo i tedeschi non mollino, per essere chiari. Se leggete sul Financial Times Deutschland gli articoli destinati a esaminare il seguito della proposta di Mario Monti sugli acquisti da parte di FSF e SEM di titoli del debito pubblico dei paesi più in difficoltà ma contemporaneamente più virtuosi, cioè dell'Italia, trovate un tono di durezza assoluta nel dire che questa è una proposta che viola alla lettera il divieto posto nel Trattato europeo per la monetizzazione del debito pubblico. Da tutti i giornali radio avete sentito dire di questa intervista di Mario Monti a Sei Quotidiani Europei. In Germania compare sulla Süddeutsche Zeitung in vista del vertice con la Merkel, con Hollande e con Mariano Rajoy di oggi. C'è la consueta rassicurazione da sempre fatta dei leader di paesi euroleader, che poi sono andati in crisi, che anche l'Italia non andrà in crisi, da parte di Mario Monti. Ma quello che purtroppo temo sia più importante è che c'è un'area di delusione che inizia a trasparire verso il fatto che il governo Monti sembra molto più proteso a sottolineare implicitamente che se non viene una cosa decisiva all'Eurovertice andrà a casa. Ecco, si sta diffondendo per la prima volta l'idea sui giornali internazionali che l'Italia può tornare a votare a ottobre. Questa è la mia impressione, e può tornare a votare a ottobre nel corso di una tempesta con un'offerta politica molto frastagliata, in cui certo le voci dell'impresa non sono rappresentate. Quindi un quadro non troppo positivo. Ma andiamo al tema del giorno. Il tema del giorno, vi ho detto, è la prosecuzione della nostra riflessione iniziata ieri con l'amico Zucchi e con la sua iniziativa nel Piacentino, domani per un passaporto per la vita, a vedere dove andarsene. Abbiamo con noi due autori, due coautori di un libro. Il libro si intitola Me ne vado a Est, imprenditori e cittadini italiani nell'Europa ex comunista, e sono Matteo Tacconi, che è un giornalista. Buongiorno Tacconi. Buongiorno. E Matteo Ferrazzi, che è un economista, lavora per un istituto di credito e anche lui ha coeditato questo libro. Buongiorno Ferrazzi. Buongiorno a tutti. Allora Ferrazzi, iniziamo dicendo: quest'anno, anzi in questi anni, perdoni, le trasformazioni di impresa nel nord-est, spesso citate, il nord-est è il Veneto, è diventata l'area in cui c'è un'intensità manifatturiera superiore al resto del nord, ovviamente rispetto a più servizi che ci sono in Lombardia, ma che ha scavalcato la tradizionale intensità manifatturiera un po' old style del nord-ovest. Allora, tutto questo da quanto e da quando e perché ha cominciato a guardare nei paesi all'est della frontiera, Slovenia, Serbia, eccetera, eccetera, la necessità, prima la possibilità e poi la necessità di andarsene? Ci si muove individualmente, ci si muove per filiere, per specializzazione? Che cos'è che è in corso? Allora, innanzitutto il processo è iniziato negli anni 90, cioè determinato non tanto dalle difficoltà italiane quanto dall'apertura di questi mercati dopo l'89, quando questi paesi sono stabilizzati e hanno iniziato quello che si chiama il processo di transizione. La questione è molto diversa attualmente, perché negli anni 90 si delocalizzava un po' di produzione di bassa gamma manifatturiera. Adesso è un processo molto diverso, molto strutturato, che investe i servizi, ed è un processo di massa, cioè c'è un fiume di aziende, di imprenditori, ma non solo, anche di studenti e cittadini, che varcano la frontiera e si ritrovano oltre Cortina. Una volta passare quella frontiera era molto molto difficile, adesso non serve neanche più il passaporto e i numeri sono abbastanza consistenti. Quello che è abbastanza impressionante è che questi numeri non li abbiamo sotto mano, cioè né l'Istituto del Commercio Estero né le Camere di Commercio riescono a monitorare appieno quante sono le aziende che varcano la frontiera. Gli ultimi dati disponibili sono di 3 anni e mezzo fa. Che è un po' pazzesco da questo punto di vista. Perché secondo lei, stante che viviamo in un paese in cui tutto quello che sappiamo più up to date su, per esempio, le multinazionali tascabili italiane, eccetera, si devono più a banche dati messe in piedi da banche o iniziative private e non certo da sistemi di contabilità pubblica, come mai siamo così attenti ad avere numeri, quindi a mettere in statistiche credibili che registri in tempo sufficientemente reale fenomeni come questi? Da che dipende? Beh, è un fenomeno molto difficile, molto liquido e magmatico in un certo senso, quindi è difficile da monitorare e poi non c'è il coordinamento tra i vari stati, cioè difficilmente gli economisti si sporcano le mani a andare ad analizzare le statistiche albanesi, rumene o bulgare magari in lingua locale, quindi le camere di commercio fanno un po' fatica e quindi il monitoraggio di questo flusso è abbastanza complicato e poi molto variegato di per se stesso, quindi ci sono le piccole pizzerie fino alle grandi industrie italiane che varcano la frontiera, quindi diciamo noi sappiamo qualcosa sulle grandicelle, sulle piccolissime facciamo un po' più fatica. Quello che è molto rilevante comunque è che sappiamo che ce n'è tante quello che citiamo nel libro è anche una proporzione con la Cina, nessuno dubita che il mercato cinese sia importantissimo, però in Europa dell'Est per quello che ne sappiamo ci sono 4 volte il numero di imprese presenti in Cina, sono 4 volte all'est, quindi le proporzioni sono abbastanza consistenti e non si tratta solo del nord-est, dei friulani o dei veneti che vanno in Romania, ecco, si tratta di un processo molto più variegato. L'altro elemento molto rilevante è che 2/3 di questi investimenti sono nei servizi, quindi non è la classica manifattura o la piccola fabbrica che va all'est, ma è un mondo anche qua molto più variegato che investe i servizi dalle banche alle società di consulenza. Ma domanda, Ferrazzi, non dovrebbe essere da un punto di vista della originazione di queste imprese del nord-est che vanno appunto verso Serbia, Montenegro, si era parlato negli anni fa del fenomeno dell'insediamento in Romania che invece adesso parrebbe nell'ultimo anno aver visto imprese che avevano insediato lì andare verso altre parti dell'est più conveniente, non converrebbe proprio dall'originazione seguirlo? Penso piattaforme bancarie integrate, visto che abbiamo poi 2 grandi banche internazionalizzate, una in particolare in Italia che ha asset, ha investito poi in queste aree d'Europa e così via. Perché non immaginare che questo processo, che viene visto come una fuga dall'Italia, e per tanti versi lo è rispetto alla complessità e alla difficoltà di fare impresa in Italia, non originarla, seguirla passo passo, aiutare a radicarla con una prospettiva comunque di difesa di testa, di cuore, di impresa italiana? Non è uno degli aspetti più diseconomici della disattenzione verso questa faccenda? Sì, sono contento di questo assist perché diciamo è proprio la disattenzione verso questa faccenda che ci ha spinto a scrivere, cioè quello che stiamo facendo in Italia è un pochettino far finta di niente, cercare di non parlarne, mettiamo un po' la testa sotto la sabbia come gli struzzi, nell'ultimo decennio non abbiamo voluto raccontare che le nostre imprese vanno fuori, in particolare quando vanno nei paesi emergenti. In verità non c'è, intanto non c'è da vergognarsene, poi come dicevo la gran parte degli investimenti sono alla ricerca di nuovi mercati, quindi non è una chiusura di fabbriche italiane, non è solo quello, e poi è importante parlarne per gestire questi fenomeni e in parte viene fatto dalle banche come da altri istituti, cioè conoscere questi fenomeni e saperli gestire è molto importante. A volte mi si stringe veramente il cuore a vedere dei magari picchetti davanti alle fabbriche italiane perché una fabbrica sta chiudendo, spesso quello lì è un processo che è iniziato 5-6 anni prima, che però non è stato compreso, ma ormai diciamo protestare davanti alla fabbrica purtroppo è molto molto tardi e c'è stato un gap informativo di anni prima che ha causato questa cattiva conoscenza del fenomeno e non gestione, quindi far finta di niente non porta da nessuna parte. Sicuramente ci dobbiamo attrezzare per gestire queste, chiamiamole così, reti lunghe, cioè anche l'economia di prossimità legata al campanile, al capannone del Triveneto ha bisogno di reti lunghe, di università, di brevetti, di paesi lontani, e su questo ci dobbiamo attrezzare. Allora, c'è anche una responsabilità, però, diciamoci la verità, dell'informazione. Adesso in questo momento mi rivolgo a Tacconi. La responsabilità, cioè, di parlare di questi fenomeni solo o per puntare il dito a traditori dell'Italia, i denazionalizzatori, rendete più fragile la domanda di lavoro in Italia nel momento nel quale naturalmente si accentua la crisi, la disoccupazione, eccetera. E poi spegnere la luce, non è un po' così, Tacconi? Assolutamente sì, noi ad esempio nel libro parliamo abbastanza diffusamente del caso Fiat in Serbia. Nel momento in cui la Fiat ha annunciato l'accordo ci fu grande stupore nel mondo sindacale e nel mondo politico e nel mondo imprenditoriale davanti appunto all'intesa tra la Fiat e lo Stato serbo, quando era evidente a tutti, se uno avesse un po', se fosse andato un po' più giù della superficie, che quella era la strada, cioè che la Fiat avrebbe investito in Serbia. E poi sì, come segnalava lei, c'è questa cosa qui del puntare un po' l'indice nei confronti di chi se ne va. A me viene in mente una recente dichiarazione del ministro Fornero, che ha detto, se non sbaglio queste erano le parole, non vogliamo che tutti vadano in Serbia, no? Quindi c'è sia appunto la tendenza a così a puntare l'indice sull'imprenditore, sia pure quella di puntare l'indice sul paese che accoglie, e questo insomma è un po' denigratorio, perché insomma non capisco perché la Serbia non possa sviluppare una politica che cerca, visto che viviamo in un mondo di competizione globale, di attirare capitali dall'estero con degli sgravi, delle facilitazioni, con delle aperture, con dei benefit dal punto di vista fiscale. Quindi c'è un doppio binario, ecco, l'imprenditore che se ne va e porta via lavoro e il paese che fa concorrenza sleale che se lo prende. Eppure, dico fuori dai denti, all'indomani di una sentenza che oggi torna sui giornali proprio sulla vicenda Fiat Fiom, e mentre è annunciata la riapertura del tavolo trattativo su Termini Imerese, su cui la mia impressione francamente è che si siano accettate garanzie o impegni di una impresa non assolutamente in grado di tenere aperto quello stabilimento con prodotti che abbiano un qualunque riscontro sul mercato. Io che da torinese, piemontese, so che dei 42 miliardi di filiera dell'automotive italiano senza Fiat dentro e al di là di quattro grandi gruppi, una decina medi, poi più di metà di quel fatturato di automotive è ancora solidamente legato all'incumbent, all'azienda, insomma, Fiat. Francamente devo dirvi la verità, che cosa posso pensare? Che noi stiamo assistendo, facendo solo polemiche per anni al fatto che la Fiat è in difficoltà crescenti e per fortuna è salito sul toro del salvataggio pubblico di Chrysler, ma non posso fare a meno di pormi la domanda su cosa stiamo facendo per l'automotive, che in Italia con livelli di eccellenza lavorava solo per Fiat. La politica che cos'è? Litigare con le aziende dicendo devi rimanere in Italia a tutti i costi? No, è creare le condizioni perché o si possa continuare a lavorare qui per concorrenti, spingendo a far questo, oppure meglio che poi l'automotive italiano segua in Serbia se la Fiat investe in Serbia, piuttosto che dire rimanete qua a morire e chiudere. Io la vedo un po' così. Io lo sapevo che bastava citare Grecia e Germania per avere tutti i commenti su quello, altro che le imprese che se ne vanno, perché naturalmente mi si dice non ho letto il Vangelo. Il Vangelo secondo voi è salvare a prescindere dai meriti? C'è chi dice il merito è un tema calvinista, anticattolico. Questo è un vecchio votante di un partito che ha fatto deficit e debito pubblico. Si riconoscono da come pensano che il Vangelo sia naturalmente che dobbiamo imparare a poggiare l'altra guancia allo Stato che ci leva il diritto di esistere. Capito? No, è una lettura un po' a senso unico questa del Vangelo che proponete. Dopodiché tantissimi che mi dicono che sono per i forti e i prepotenti, che voglio che in campo ci sia chi scende con gli stivali chiodati dell'SS. Ma è possibile mai che siate così in tanti di voi protesi a condividere le ragioni di chi ve la ficca nel fondo schiena, cioè lo Stato italiano? È possibile mai che voi immediatamente vi scateniate a favore della belva tedesca, cioè quelli che stavano peggio di noi, che si sono tirati sulle maniche, hanno cambiato le regole pubbliche e private, ed è un esempio senza che ci siano ricette da dover replicare, perché ogni paese ha una situazione diversa, un tessuto di impresa diversa, un ambito culturale diverso. Ma quelli sarebbero esempi da prendere per cambiare dal basso questo paese, oppure voi volete battere le manine a chi va a Roma e vi dice che pagando sul totale del PIL di questo paese rispetto a chi le tasse le paga, cioè PIL legale, non PIL reale, pagando noi 54% per una spesa pubblica che è il 60% di quella del PIL legale, voi dite che i cattivi sono gli altri? Beh, è fantastica questa cosa. E siete pure ascoltatori di Radio 24, per di più. Anzi, dite che me ne devo andare io. Probabilmente avete ragione, comunque, perché se vince questo sentimento diffuso in una parte d'Italia prevalente, il sentimento del resto di chi? Del presidente Berlusconi, che fino a 6 mesi fa andava agli Eurovertici, diceva che avevamo fatto noi i compiti a casa, che l'euro era una cosa eccetera, e adesso come niente fosse se ne esce dicendo l'euro, ma uscire dall'euro. Capite? Lui è lui che ha accettato l'azzeramento del deficit al 2013, o io, e Tremonti, o voi. Eppure tutto questo in Italia fa parte di un film che è quotidiano. A proposito di film, allora, voi che battete le mani alla Grecia e che bisogna essere tutti solidali, ho sentito dire l'Europa non deve avere forti e deboli, certo, dopodiché io devo essere alto e biondo. Allora, in Sicilia assumono altri 622 dirigenti, perché ne hanno solo 1822, più 16.000 dipendenti, più 22.000 temporanei che hanno appena sanato con la loro finanziaria, per essere chiari, fatevi conto di che cosa vuol dire, ovviamente, 16.000 più 22.000 più 1822. Due dirigenti, Regione Sicilia, e adesso ne vogliono assumere altri 668 di dirigenti, perché sostengono che sono 668 i posti vacanti di dirigenti da assegnare, e i primi contratti saranno firmati a luglio, e dopodiché la reazione è: ma che volevate? Perché dovremmo scendere sotto la quota di 2.490 che avevamo nel 2010, dice la Regione Sicilia, perché dovremmo scendere, capito? Non è che noi stiamo fallendo, abbiamo questi costi dello Stato, loro hanno un numero di dipendenti e spesa pro capite incomparabilmente superiore a quelle di stragrande maggioranza delle regioni italiane. La domanda è: perché volete che non assumiamo nuovi dirigenti? Probabilmente anche loro ti faranno per i deboli e diranno che i forti sono cattivi. I forti sono naturalmente quelli che hanno un numero di dipendenti, tasse più basse, eccetera, eccetera. Ma per carità di Dio, vorrete mica mettere in mano l'Europa ai cattivi? Volete mica un mercato che funzioni secondo le regole per cui si dà il premio a chi fa le cose meglio? Ma no, spesa pubblica, tasse, dipendenti, tanto. Secondo voi, a pagare, quando poi le imprese o chiuderanno o se ne andranno, chi sarà? E questa è la mia bella domanda, cioè quale parte d'Italia resta a poter sopportare un peso crescente di ragionamenti come questi? Un altro esempio dell'Italia che non attira impresa, ce ne siamo occupati molte volte, anche in questo caso, le opere pubbliche e le infrastrutture che con i loro no alle procedure autorizzative, i loro ritardi, i comitati NIMBY, tutto quello che volete voi, alla fine non hanno tempi certi, non mettono le condizioni, i gruppi italiani e internazionali, di poter calcolare con un minimo di credibilità la redditività dei loro investimenti, e non possono quindi pianificare né una pianificazione fiscale, né un'amministrativa, né uno del lavoro, l'abbiamo detto tante volte, e ci eravamo occupati della vicenda del rigassificatore di Brindisi. Ora, dopo anni e anni e anni, dopo che British Gas, a cui era stato affidato questo progetto, aveva investito, aveva assunto, è rimasto con le braccia conserte a vedere tutti no, e alla fine British Gas si era scocciato e aveva detto: sentite signore, di fronte all'ennesimo no dell'impianto, noi vi salutiamo e mettiamo in mobilità. Si sono aspettati giusto quel numero di mesi per vedere se i britannici facevano sul serio. Quando si è capito dal 1 di giugno che facevano sul serio, cioè nel senso che loro hanno perfezionato l'accordo di mobilità, hanno quindi ridislocato il personale in altre sedi, e altri lo hanno avviato invece al percorso di uscita, ecco che improvvisamente ieri si riapre la procedura del nulla osta di fattibilità del NOF, il Comitato Tecnico Regionale della Puglia, si riunisce a Brindisi e il Comitato Tecnico Regionale, sentite bene, composto dai rappresentanti dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, che è l'Agenzia Regionale Ambientale, dell'INAIL, della Regione Puglia, della provincia di Brindisi, del comune di Brindisi, dell'ISPESL, dell'Ordine degli Ingegneri, dall'autorità portuale, dal Ministero del Lavoro. Prego, vengo avanti, signori e signori, ce n'è ancora i posti al comitato per dire sì o no al rigassificatore. Allora, e si riapre la procedura del nulla osta di fattibilità e questo comitato, lo stesso che aveva detto no a maggioranza, cambia la maggioranza e esprime parere positivo improvvisamente al rapporto di sicurezza presentato dalla società per il progetto dell'impianto da portare a compimento nel porto esterno, ve lo ricordo, di Brindisi. Allora, di questi componenti del CTR, del comitato tecnico regionale, 8 votano a favore e 6 contrari, perché nella precedente votazione invece era finita 5 a 5 con due astenuti. E quindi il Comitato Tecnico Regionale riapre il procedimento, sia pure con immediate dichiarazioni durissime di Nicchi Vendola, presidente della Regione Puglia, riapre immediatamente il procedimento, già chiuso, ma in Italia quando mai c'è la certezza di un tempo? Si chiude, si apre, come una fisarmonica, piena discrezionalità. E del resto, e devono essere i cattivi tedeschi che non devono ovviamente trattarci male, no, noi siamo liberi di fare come ci pare, e mica è British Gas che comanda e decide lei, dopo tanti anni, se vuole fare impianto. Deve fare l'impianto, è nostro. Condizioni, è capifero, è ovvio, sta scritto pure nel Vangelo, porgi l'altra guancia, British Gas, vieni qua che ti diamo due altri ceffoni. Questo è il modo con cui noi ci presentiamo nei mercati internazionali. Allora, naturalmente il sì del Comitato Tecnico Regionale non è che abbia fatto cambiare idea, no, a regione, provincia e comune, per essere chiari. Però, naturalmente, siccome la sede brindisina della LNG che c'era da 11 anni, una volta che aveva avuto il via questo progetto, è chiusa. Ecco che improvvisamente, di fronte alla paura del lavoro, cambiano le idee. Allora, noi ci siamo poi chiesti a questo punto di vedere quale fosse la reazione che questo tipo di ridelibera con questi tempi così limpidi, cristallini, da paese che ovviamente impugna il Vangelo e dice facciamo come ci pare e Dio non potrà che darci ragione, abbiamo chiesto all'azienda di farci capire come la pensa a questo punto di questa riapertura del procedimento. E quindi abbiamo con noi Luca Manzella, che è il presidente e l'amministratore delegato di British Gas Italia, col quale io mi scuso se nella ricostruzione, per esigenze radiofoniche, per non perdermi il pubblico, diciamo così, mi sono lasciato andare a qualche tono veramente non consono a vicende d'impresa. Però, Manzella, innanzitutto buongiorno e grazie, ci faccia capire. A questo punto British Gas Italia che cosa dice? Allora, prima di tutto, diciamo, questa decisione recentissima del Comitato Tecnico Regionale, essendo un comitato tecnico, non ha fatto altro che riscontrare qualcosa che la British Gas dice ormai da 10 anni, cioè che il terminal era un progetto che è tecnicamente valido e assolutamente sicuro. Quindi, come lei ha opportunamente ricostruito, il comitato tecnico, e sottolineo nuovamente tecnico, non ha fatto altro che evidenziare nuovamente la validità tecnica di un progetto. Purtroppo in questi comitati tecnici siedono anche, diciamo, entità politiche che poi in qualche modo cercano di approfittare di sedi che dovrebbero essere di natura esclusivamente tecnica per portare avanti diciamo, campagne di altro genere. Quindi abbiamo già visto gli annunci successivi, immediati, dopo questa decisione, di citazioni del governatore Vendola che parla di un atto violento e illegittimo, cose del genere, quindi già annunciano tutti i ricorsi di fronte al TAR, Consiglio di Stato, e quindi niente, ci prepareremo come al solito all'ennesima trafila legale, ma non sposta di molto la percezione che abbiamo rispetto a quella che è l'atteggiamento delle autorità locali rispetto a un progetto che è di carattere nazionale e di livello, è assolutamente strategico per il paese. E cioè, mi pare di capire che è molto difficile immaginare che questo voto del comitato tecnico in realtà cambi davvero, visto che la contrarietà delle autorità locali, quella politica, resta tutta. Un po' questa è l'impressione, vero Manzella? Ma direi di sì. Sì, direi che a livello locale la situazione è abbastanza chiara. Quello che noi ci aspettiamo è di poter discutere con il governo nazionale, appunto perché il progetto è nazionale, di livello strategico nazionale e anche di interesse comunitario, quindi è un progetto che a questo punto ha più una valenza nazionale e anche internazionale. Ricordo che questo progetto è stato riconosciuto di interesse comunitario nel 2006, recentemente i vari operatori delle infrastrutture di interconnessione nel trasporto gas, tra cui la SNAM, l'ente francese, l'ente tedesco, l'ente svizzero, hanno fatto un nuovo piano di sviluppo a 10 anni, dove vogliono fare praticamente il cosiddetto reverse flow, collegare, far passare il gas dall'Italia verso il centro Europa, e all'interno di questo progetto di disegno internazionale si parla di un rigassificatore nel sud Italia. La migliore posizione, è, come ha già riconosciuto l'Europa nel 2006, è sulla costa adriatica meridionale, e quindi, insomma, se volete leggerlo un po' come volete leggerlo, la migliore posizione per questo tipo di rigassificatore è a Brindisi. Quindi qui ormai è veramente un progetto che ha valenza nazionale e internazionale, quindi ci aspettiamo che sia un po' il governo a dover sponsorizzare in qualche modo, a dover anche attivarsi come mediatore nelle posizioni per un progetto che è principalmente adesso di interesse non solo nazionale ma anche internazionale. Quindi aspettiamo un po' questo. Io ringrazio Luca Mazzella e sposo integralmente la richiesta che, come sempre, i governi dicono e poi nessuno fa: le opere nazionali strategiche, quelle che riguardano l'energia, le infrastrutture di trasporto, eccetera, titolo quinto, non titolo quinto, vanno riaccentrate con ordini temporali certi, senza i quali queste opere non partono, non è possibile un calcolo di redditività degli investimenti, tantomeno realizzarle sapendo che la finanza pubblica non è in condizione di realizzarle, quindi bisogna chiedere crescentemente al capitale privato di farle in progetti di partenariato. Queste, finché resteranno chiacchiere, non sarà realtà. Avete voglia a dire che dobbiamo restare in Europa? Noi siamo semplicemente il peso morto della parte vitalmente integrata e capace di fare la manifattura che si fa anche in alcune regioni italiane e che ci porta a essere il secondo paese manifatturiero esportatore. Però il declino di questo sistema di regole pubbliche, di disincentivi pubblici è certo in questo modo. E mentre tornano i Doors, io torno a martellarvi a dire che forse è il caso di leggere libri come Sudditi, edito da Bruno Leoni, di leggere libri come Se va bene andrà peggio, scenari sull'eurocrisi, li trovate il primo anche in libreria, ma entrambi soprattutto nelle piattaforme per ebook, ebookizzati, Amazon.it ovviamente, eccetera eccetera. Fatelo, perché questo punto di vista minoritario, che però tanto minoritario non è, vede migliaia e migliaia di imprese nel frattempo, rassegnatamente alcune, energicamente e deliberatamente altre, alzare le tende e andarsene oltre frontiera. E quando si assiste per anni a questo, vedete, non saranno le contese in tribunale a far rimanere le imprese dove stanno. Le imprese vanno dove è più conveniente stare. E un ordinamento che crede di sfidare questa legge dicendo pagate di più e tacete, pagate di più e tacete, otterrà semplicemente che ce ne andremo. Tutto qua. Mario da Udine, prego Mario, come la pensa? Sì, buongiorno, buongiorno. Io la penso esattamente come lei, però devo dire che effettivamente già 10 anni fa, almeno, le istituzioni invogliavano gli imprenditori andare all'est. Sì. E quindi mi erano a casa le lettere, dicevano guarda, ti diamo questo, questo, questo e ti portiamo noi, andiamo. Questo dicevano. Quindi la politica ha la sua responsabilità. Ah, per carità. E niente da dire. Ma la politica, se ha fatto altro, cioè i fatti suoi, come i decreti giudiziari per i fatti loro, dicendo che facevano meno tasse e hanno alzato la spesa corrente e più tasse, e oggi ci dicono, ma l'euro non l'abbiamo voluto, lo smontiamo in 5 minuti. E vedo che molti di voi dicono che Berlusconi è la vera carta da giocare ancora. Beh, vi faccio veramente i miei auguri, se ancora non avete capito dopo tanti anni. Gli altri sono peggio. Sì, sì, per carità di Dio, certo che sì. Infatti o diamo una voce, una rappresentanza a tutto questo o non ci potremo lamentare. La politica da tanti anni va in quella direzione. Per Paolo da Trieste, come la pensa per Paolo? Sì, pronto. Eccoci, dica. Allora, intanto volevo dire che credo che la sua permanenza a Radio 24 non dovrebbe essere neanche messa in discussione, perché non tocchiamo sto punto che dicono che sono oltre ogni limite già, quindi guardi, non mi complichi la vita, parliamo di quello che pensa lei. Allora, io sono un imprenditore nel campo dei servizi e sto da Trieste, sto portando la mia azienda in Slovenia, ma non solo perché la Slovenia ha una minore pressione fiscale, perché poi in realtà ce l'ha sulle aziende, sulle persone la tassazione oltre i 15.000 euro passa al 42%. Eh sì, esatto, ma fa bene a ricordarlo, fa bene a ricordarlo. No, quindi non è che, ma per la semplicità normativa, per la chiarezza delle procedure, per la velocità con cui si ottengono le cose, e soprattutto perché una volta che le hai ottenute non sono messe in discussione. Questa è la differenza. E c'è, io ho anche degli incarichi nazionali Confindustria e quindi mi confronto con gli imprenditori delle altre regioni. La devo fermare, e si confronta con gli imprenditori delle altre regioni, però vedete, la semplicità alla fine vince. Vedremo se questa sera in campo deve vincere il più debole. Mi stanno tagliando. Radio Forza 24. Germania!